No, adesso prendo la parola Alberto Burgio. Alberto Burgio è meno è noto, ma è meno noto in questi ambienti fisicamente perché c'è venuto meno. È professore universitario, è però in particolare conosciuto come perché è meno del comitato di realizzazione di Marxismo Oggi. Cioè, non è. Quindi Alberto Burgio ha avuto anche dalle pagine di Liberazione una garbata atteggiamento critico su alcuni lavori di Aldo Bonomi e di altri, e quindi è il primo che interviene. Io partirei intanto da un dato che mi sembra in fondo quello più interessante. Noi abbiamo di fronte un fenomeno, una serie di fenomeni, e li valutiamo in modo così profondamente diverso che questa stessa differenza del giudizio, a mio modo di vedere, costituisce un problema. Non ignoro che a sinistra, nelle sinistre, ci siano diverse culture, diverse prospettive, e questo va da sé, però rispetto al non profit e al terzo settore effettivamente si assiste ad una tale divaricazione delle posizioni che secondo me questa stessa divaricazione è interessante, e io ho cercato di capire perché si determini, cioè a che cosa rinvii. La domanda che effettivamente mi sto ponendo è questa, e diciamo questo, ci sono due modi di rispondere. Il primo è quello così che mi era sembrato pertinente fino a qualche tempo fa, ed è il modo con cui in genere si risponde, cioè ci si divide perché il fenomeno è diviso. Ci si divide, ci si differenzia perché il fenomeno è in se stesso, come si suol dire, ambiguo o ambivalente. Questo è indubbiamente vero, anche se non mi soddisfa questa risposta, perché io credo che di fronte ad un fenomeno ambiguo, onestà intellettuale vorrebbe procedere ad una descrizione dell'esistente, ad una valutazione sobria della realtà e alla individuazione, come dire, del segno prevalente che in questa ambiguità una determinata realtà ha. È certo che dentro il settore non profit, esso stesso peraltro di difficile definizione, chi lo studia incomincia ad avere delle serie difficoltà o si attesta ad un livello estremamente formale che è quello della non redistribuzione dei profitti, per intenderci, e però valuta appunto la insoddisfazione di questa classificazione, di questa tipologia dentro cui ci sta di tutto, ci stanno i centri sociali e la Confindustria, per intenderci, e altrimenti cerca nuove forme di definizione perché effettivamente l'ambiguità è un fatto. Però, dicevo, intanto bisognerebbe procedere ad una seria, forse un po' più puntigliosa, ecco, descrizione, analisi del terzo settore e dei terzi settori, perché il terzo settore italiano è una cosa completamente diversa dal non profit francese o del non profit statunitense, perché sono diverse le società e le culture, le organizzazioni, come dire, anche le strutture giuridiche e normative alle spalle. E allora, nel caso in cui si procede ad una analisi corretta e puntigliosa, dicevo, del terzo settore italiano, bene, il dato assolutamente prevalente è che il terzo settore italiano è, da questo punto di vista, atipico, in quanto la di gran lunga maggior fetta e dell'occupazione e dei comparti attiene alle funzioni di sussidiarietà e di sostituzione del welfare. Si tratta in primo luogo di soggetti attivi nella erogazione dei servizi sociali e socioassistenziali, poi di soggetti attivi nel campo dell'istruzione e dell'educazione, cioè scuole e in minima misura università, e in terzo luogo nel settore della sanità. Io non intendo dire che questo scredita tutte le operazioni di, come dire, ipotesi e prefigurazione che si vogliono o si possono fare, e naturalmente hanno l'onere del dell'argomento, dell'argomentazione sul non profit. Non sto dicendo che siccome il non profit è, almeno qui e ora, una certa cosa, svolge determinate funzioni, questo significa che non potrebbe essere anche altro. Però partiamo da qui e partiamo da un dato che appunto è questo, lo grande sviluppo, vi sarete chiesti perché adesso se ne parli tanto, ecco, il grande sviluppo del settore, del terzo settore, è in una coincidenza non casuale con i processi di privatizzazione e di smantellamento dello Stato sociale. Ma dicevo che questa risposta non mi soddisfa, cioè è una risposta che secondo me è, a mio modo di vedere, inconfutabile, dopodiché però ci fa fare pochissimi passi in avanti, perché sarà sempre legittimo, e lo rimane naturalmente, dire che questo è una parte del non profit, che noi riconosciamo, che tutti quanti riconoscono che il non profit è anche questo, ciò non toglie che il non profit è anche altro. Dopodiché uno si dovrebbe chiedere se non sia forse il caso di disaggregare questa categoria e di uscire da queste ambiguità, perché anche le ambiguità sono, a mio modo di vedere, estremamente pericolose, ma dicevo, se ci fermassimo qui avremmo fatto poca strada. Io credo invece che la cosa di gran lunga più utile, me ne sto convincendo sempre di più, è quello di chiedersi quali culture stanno alla base delle diverse sensibilità che ci portano gli uni e gli altri, rispettivamente, a mettere l'accento su il carattere progressivo e liberatorio del settore non profit, del terzo settore o dell'economia sociale, come la vogliamo chiamare, e altri invece ad essere cauti, diffidenti e perplessi. Ecco, secondo me è il retroterra culturale, se volete ideologico, arrivo a dire in qualche misura le filosofie politiche e le filosofie della storia che stanno alle spalle, che secondo me bisognerebbe tirare fuori con grande semplicità, anche se in apparenza le cose diventano complicate e sfuggenti. Io non credo che siano complicate e sfuggenti, io credo che siano invece le cose più semplici e forse credo anche più utili, guardate, perché siccome noi non stiamo facendo un seminario sul non profit, ma invece ci stiamo incontrando per misurare le nostre divaricazioni su temi che sono invece cruciali della nostra identità politica, cioè che cosa intendiamo per politica, che cosa intendiamo per società o per socialità, che cosa intendiamo per Stato, visto che Bonomi ci faceva l'elenco giustamente delle questioni all'ordine del giorno. Ecco, io ho questa idea, questa convinzione che mi si radica sempre di più, che noi ci dividiamo nella valutazione dei fenomeni e dei processi, per esempio della faccenda del non profit, perché abbiamo delle idee diverse su che cosa è la politica, su che cosa è la società e la socialità, su che cosa è lo Stato. Allora, invece di continuare, secondo me, a lasciare questo terreno fondativo e costitutivo delle nostre identità come se fosse, come dire, un tabù nel non detto, io sono per tirarlo fuori e al limite per dividerci, certamente non credo che questo basterà a generare una nuova concordia, perché, come dicevo, le famiglie, le culture politiche sono probabilmente molto diverse, però credo che venire in chiaro su questo ci farebbe fare un passo in avanti a tutti quanti, naturalmente. Allora, diceva Aldo Bonomi all'inizio, il compito della sinistra, e parto proprio da questa frase, mi sembra estremamente felice, perspicua, come dire, l'incipit forse più utile, almeno ai miei occhi, posto il problema che evocavo, a fare strada in questa discussione. Diceva, il compito della sinistra, comunque si pongano i vari problemi della globalizzazione, della crisi dello Stato, delle metamorfosi degli Stati, eccetera, della socialità e quindi del non profit, comunque, diceva, il compito è rompere la simbiosi crescente tra economia e società, quello che lui chiama nel suo libro la progressiva affermazione della concezione naturalistica del capitalismo, no? Questa idea che il capitalismo sia la natura, e peraltro è il problema che aveva Marx, perché quando Marx se la prende con i classici dell'economia politica dice, beh, insomma, voi questo fate, voi prestate a questa forma determinata di valorizzazione del capitale e di organizzazione del lavoro il senso della natura e delle leggi naturali, no? Benissimo. Allora io credo che se noi partiamo da questa domanda, opportuna e pertinente, direi che qua ci dividiamo davvero. Perché? Perché secondo me la domanda conosce due risposte, a mio, se ho ben capito, due risposte profondamente diverse. Una è il terreno per impedire la identificazione tra economia, leggi capitalismo e società, è il terreno della socialità. L'altra risposta è il terreno per impedire questa progressiva identificazione, che è il nemico, e questo per fortuna lo condividiamo, è la politica. Ecco, io credo che sia esattamente questo il vero punto di discrimine, e tiriamolo fuori e cerchiamo di capire perché. Io credo che sia la politica, e leggo, devo dire, abbastanza in lettere nitide nella posizione di Aldo Bonomi, di Marco Revelli e di altri compagni che non a caso la pensano poi diversamente sul terzo settore, perché ne consegue una idea della politica che a mio modo di vedere è insoddisfacente e è, come dire, un po' anche preoccupante. Perché? Bene, perché secondo me l'idea di politica, e qui vorrei capire se sbaglio, perché se sbaglio nella lettura, non se sbaglio nel giudizio di valore, perché è evidente che sono due piani diversi, se sbaglio diciamo nella interpretazione dei testi, ecco, l'idea di politica che emerge è questa: la politica è il luogo della istituzionalizzazione, è il luogo dell'irrigidimento, è il luogo della tendenziale repressione del piano della socialità, dove quest'ultima è viceversa il piano della espressione tendenzialmente libera e liberante delle soggettività. Ecco, a me pare che ci sia, scusate la rozzezza, la estrema schematicità del discorso, che ci sia questa sorta, come dico, di filosofia politica soggiacente, su cui secondo me bisogna lavorare davvero. Bene, io invece penso una cosa completamente diversa. Penso una cosa completamente diversa. Che la socialità non è meno innervata di politica per il fatto che non si riconosce politicamente attraversata e determinata, ma che nel momento in cui istituisce una distinzione tutta ideologica tra sé e la politica intesa come luogo delle istituzioni, non è altro che una società e una socialità subalterna, e che l'idea che sta passando, badate che questo è il mio allarme, l'idea che sta passando di società e di socialità così seducente non è altro che un'idea, esattamente in questo devo dire che io non sono quasi per nulla d'accordo sulle posizioni di Rossana Rossanda, molto raramente mi trovo d'accordo, però quando dice a Bonomi attenzione perché tu trasfiguri le tendenze in atto, e Bonomi gli risponde con una tautologia, come dire, potente ed ingenua ad un tempo, io non posso trasfigurare perché dico come stanno le cose, non c'è nulla di apologetico nel dire come stanno le cose, va da sé che poi bisogna vedere, Aldo, se veramente tu dici come stanno le cose, cioè nella critica che Rossana ti muove tu non dici affatto come stanno le cose, ma tu descrivi le cose come stanno andando secondo te, legittimandole. Questa è anche la mia idea, e se avremo modo di parlare ti dico anche perché io credo che voi, Marco e tu, con le debite differenze, però descrivete dei processi in atto che sono luoghi di conflitto come processi compiuti, e diciamo da un punto di vista della trasformazione del ciclo e da un punto di vista dell'organizzazione del sistema dei poteri, vedi dissoluzione dello Stato-Nazione, secondo me le cose non stanno come dite voi. Sono luoghi di conflitto aperti, lo Stato è un luogo di conflitto aperto, lo è sempre stato, la cultura nostra è questa, non è una cultura che regala la politica al nemico, che regala l'istituzione al nemico, che regala lo Stato al nemico, questa è una cultura minoritaria, e appunto dico questo, e concludo, perché secondo me è su questo che dobbiamo parlare, l'idea di società senza politica, contrapposta alla politica, che è luogo di liberazione nella misura in cui sta fuori dalla politica, è esattamente... Questo è il punto, l'idea di società che si vuole fare passare, è l'immagine della società quale si vuole che divenga, è l'idea di società funzionale esattamente alla radicalizzazione del dominio capitalistico, Perché? Perché è, diceva Pierpaolo poc'anzi, e questo io lo condivido davvero, è come dire, senza attribuirti questa posizione, attenzione, perché poi cerco di comprendere e di descrivere da un punto di vista il più possibile oggettivo e anonimo, quindi non irrigidiamoci ora su queste etichette, però c'era del vero quando diceva leghismo rivoluzionario, cioè la descrizione della società che piace nella misura in cui è appunto lasciata in presa diretta al suo esprimersi privo appunto del momento della politica, io voglio dire della politica intesa, badate, voglio rovinarmi, intesa come momento della istituzionalizzazione, della organizzazione dei movimenti, del salto di qualità che consente ai movimenti di divenire, lo voglio dire, Stato. Ecco, una immagine di questo genere è il trionfo del particolarismo, è il trionfo dell'informale ed è il trionfo di un locale che non è affatto locale globale, che è locale, solo locale, che subisce le dinamiche di globalizzazione in atto. Questo volevo dire.